Cari amiche e cari amici, bentrovate a Radio Alma, Brussellando, e abbiamo un ospite speciale dall'Italia questa sera, Lappo Pistelli, che ha appena pubblicato un saggio molto interessante sulla rivoluzione araba, tant'è che la definisce una nuova rivoluzione araba. Lappo, benvenuto a Brussellando. Buonasera a tutti voi. E mi chiedevo, partiamo con una domanda proprio didattica, scolastica, perché nuova rivoluzione? Perché ci hai tenuto a definirla nuova questa rivoluzione? In che senso nuova? Allora, nuova rivoluzione, un nuovo sogno arabo, come dice il titolo, perché innanzitutto l'area di cui stiamo parlando non è un'area che è estranea a rivoluzioni, anzi viene da dire che da quando il mondo arabo esiste, con il disfacimento dell'impero ottomano, si è andati avanti fra una rivoluzione, un colpo di Stato e un putsch uno dietro l'altro. Ci sono casi come la Siria che in 14 anni, dal 51 al 64, hanno sperimentato 14 colpi di Stato, cioè in media uno all'anno. Quindi la rivoluzione, la ribellione, la rivolta è sempre stata una caratteristica, l'inquietudine di questo mondo. Parlo di nuovo perché ciò che è accaduto tra la fine del 2010, fra poco sono due anni, e che sta ancora accadendo, ha caratteristiche inedite rispetto al passato, e questo probabilmente spiega anche perché tanti degli analisti che si erano pure confrontati con questo mondo non avevano dato importanza all'inizio agli eventi, pensavano che fosse la ripetizione di una delle ennesime rivolte del pane tipiche del mondo arabo e che sarebbero finite, diciamo, sempre alla stessa maniera. Invece così non è stato. Probabilmente questo è un caso in cui Samuel Huntington, l'analista che noi tutti o comunque ricordiamo per un libro dal titolo molto provocatorio, Lo scontro delle civiltà, aveva ragione quando diceva: guardate che nel mondo negli anni 80 i paesi dell'America Latina sono avviati verso la transizione democratica, negli anni 90 i paesi dell'Europa dell'Est, ma qui c'è un blocco nel mondo che ancora resiste all'idea di una democrazia, che è il mondo arabo, e invece da lì a pochi anni anche questo mondo, con alterne vicende, ma si è messo in movimento. Tra le varie parti del suo saggio ce n'è una molto interessante, che è poi quella iniziale dopo il prologo, che è La cronaca di una rivoluzione, dove lei descrive effettivamente tutto quello che accade nei paesi coinvolti da questo, diciamo, chiamiamolo tumulto di democrazia. Lei ci parla della Tunisia, dell'Egitto, della Giordania, del Marocco, della Libia e lo Yemen. Però mi premeva sapere, secondo lei, rispetto a tutti questi paesi, qual è il solco comune, qual è il fil rouge che accomuna questi paesi? Allora, diciamo, i paesi che si fa bene a precisare hanno tutti una storia diversa e condizioni diverse di partenza, al punto tale che poi nella, diciamo, la tesi finale del libro, quando deve dare un assessment, una valutazione sul perché in alcune zone questi eventi riescono e in alcune non riescono, in altre sono ancora in transizione, adotta un criterio quasi geografico, cioè la distinzione fra le tre subregioni del Maghreb arabo, cioè la parte nord dell'Africa, il Mashrek, quello dove c'è Israele e Palestina, Siria, Libano e il Golfo. Ecco, nonostante queste differenze, che poi potremo magari eventualmente approfondire, la cosa che colpisce, che io ho cercato di rendere nel primo lungo capitolo, peraltro aggiungo un capitolo molto vissuto personalmente, perché io in quei due anni sono stato molto in quei paesi mentre gli eventi accadevano, e quindi, diciamo così, le fonti di informazione non sono soltanto i saggi, i libri o i quotidiani, ma tanta vita vissuta, tanti incontri diretti, tante storie ascoltate, quindi una cosa che sta a metà fra un saggio ma anche un po' di reportage. Ecco, si è creata una stranissima condizione che che ho chiamato di tempesta perfetta, ovvero nessuno degli eventi che cito sarebbero stati da soli in grado di provocare questo tsunami, ma l'insieme simultaneo di tutti questi elementi ha provocato appunto la tempesta perfetta. E quali sono stati? Primo, una questione demografica si è creata in quei paesi, non c'è stata in passato, sta calando per il futuro, una sorta di gigantesca bolla demografica che ha provocato la contraddizione fra paesi estremamente giovani, età media 22 anni, ma nello Yemen addirittura 18 anni, governati da elite familiste corrotte, dispotiche, spesso e volentieri da un periodo più lungo dell'età media dei governati, un momento di crisi economica in cui l'Europa, ahimè, ha fatto la sua parte molto rilevante, perché le economie del Nord Africa sono intimamente legate all'andamento dell'Europa, per cui se l'Europa va in stallo rallenta anche l'Africa, e dunque l'impossibilità per quei regimi di assorbire le proteste sociali con i mezzi di sempre, un po' di repressione e un po' di lavoro pubblico o nell'esercito o nella pubblica amministrazione, una novità tecnologica che non c'era semplicemente 10 o 20 anni fa nelle vecchie rivolte, e cioè gli smart device, voglio dire social network, Facebook, Twitter, i telefonini intelligenti, che hanno permesso sia di craccare le censure sia di organizzare con modalità inedite manifestazioni e rivolte. E aggiungo pure l'elemento di innesco, e ahimè l'innesco in questo caso è sia simbolico che reale, cioè molti atti di autoimmolazione, insomma i ragazzi che sono dati fuoco per protestare contro questo disagio estremo. Il primo appunto Mohamed Bouazizi in questa sperduta città della Tunisia, nel centro della Tunisia, il 17 dicembre del 2010. Insomma, elite vecchie, giovani nuovi, più educati scolasticamente, molto incazzati, socialmente marginali, con dei mezzi innovativi che le censure e gli eserciti tradizionali non riuscivano a controllare, e degli atti di ribellione. Da qui un effetto domino che ha coinvolto in 3 mesi 8-9 paesi con modalità che l'Occidente non si aspettava. Questo è effettivamente molto interessante, perché se guardiamo pure da un punto di vista cronologico, insomma, soprattutto il mese di gennaio è stato ricchissimo di eventi che hanno caratterizzato questi paesi. E invece, per quanto riguarda, lo accennava lei prima, alle differenze tra questi paesi, ce n'è una che mi ha incuriosito in particolare, ed è quello che lei chiama le verdi sfumature dell'Islam, perché mentre sulle altre, insomma, tutto sommato si parla di diversità geografiche ed economiche, le altre sulle forze armate, che pure, insomma, tanto hanno giocato in queste situazioni, queste verdi sfumature dell'Islam mi hanno incuriosito in maniera particolare. Possiamo parlarne di più? Possiamo sviluppare questo punto? Sì, ma diciamo così, noi abbiamo un'idea di tutto ciò che non conosciamo nel dettaglio, che tende a essere o confusa o monolitica. Spesso e volentieri, nel caso dell'Islam, per noi diciamo in generale europei, cristiani, bianchi, cioè il mondo di ieri, come dire, i musulmani sono tutti uguali, è un po' sotto lo stesso giro. Invece così non è. Non lo è né dal punto di vista delle scuole proprio coraniche di riferimento, e questo evidentemente ci mette davanti a una tavolozza di colori diversi tra un Islam, chiamiamolo così, più aperto, più vicino all'idea che noi abbiamo di una religione che sa distinguere dove la sfera spirituale si ferma e dà spazio alla sfera secolare della politica, a forme invece di sensibilità religiosa che fanno coincidere esattamente la sfera religiosa con quella politica, e quindi danno vita a forme di integralismo che per noi sono più ostiche da comprendere e sicuramente da accettare, fino a delle proprie differenze dottrinarie. Quella più o meno, diciamo così, orecchiata da tutti è quella evidente fra sunniti e sciiti. La grande maggioranza del mondo musulmano è sunnita, poco meno del 10%, poco più del 10% del mondo musulmano è sciita. Peccato però che questo dia origine evidentemente a una enorme disputa che al tempo stesso doppinaria e politica. Il caso più esemplare è quello che accade nel Golfo Persico fra l'Arabia Saudita, campione dell'Islam sunnita, nonché paese custode di 2 dei 3 luoghi sacri dell'Islam, Mecca e Medina, e Teheran, cioè l'Iran, che è la capitale invece dello sciismo, che dunque si contrappone sia dal punto di vista della dottrina coranica, ma anche dal punto di vista della, come dire, polarità politico, diciamo, della polarità politica. Ovviamente, per un verso, l'Arabia diventa il grande giocatore insieme all'Egitto, capace di influenzare le dinamiche di molti altri paesi. L'Iran esercita la sua influenza non soltanto in Siria, perché sciiti alawiti sono in questo caso anche la famiglia Assad, ma sciiti sono anche gli Hezbollah in Libano, sciiti sono le minoranze del Bahrain, la maggioranza in questo caso del Bahrain che si è messa in moto contro l'Emiro. Insomma, una dinamica che attraversa profondamente questo mondo e che spinge almeno me o almeno noi a fare quale ragionamento. Se vogliamo non chiudere la porta dicendo non ci appartiene, e lo dico da italiano, non ce lo potremo neanche permettere perché sono i nostri vicini di casa, abbiamo invece bisogno di conoscere e capire qualcosa di più, anche perché questo Islam che è stato per molto tempo represso e messo fisicamente in galera dagli autocrati di ieri, da Mubarak, da Ben Ali, dallo stesso Gheddafi che aveva la sua idea tutta peculiare dell'Islam con il libretto verde, insomma è quasi ovunque oggi al potere, sotto la forma della fratellanza musulmana e dei partiti che adesso si ispirano. Per cui o noi ci trattiamo in casa e ripetiamo gli stereotipi di ieri, cioè cerchiamo qualcuno che ci protegga dalle paure, o dobbiamo ingaggiare queste forme politiche, perché è soltanto dall'ingaggiare queste forme politiche che potremo riuscire, per certi aspetti, noi a capire qualcosa di più e loro anche, virgolette, a sporcarsi le mani con la responsabilità della politica e con la laicità necessaria. E a questo punto queste vecchie sfumature dell'Islam ci faranno probabilmente un po' meno paura e ci faranno anche a noi un pochino di più la testa. Dopo 2 anni, quindi, lei cerca anche di redarne un bilancio. Magari ne parliamo per area geografica, perché andare nello specifico purtroppo non riusciamo, però se riusciamo semplicemente a dare un cenno sul Maghreb, sì, sul Mascaresh e sul Golfo. Una premessa fondamentale: è chiaro che all'inizio di queste rivoluzioni le persone sono rimaste parte positivamente sorprese, diciamo così, si sono schierate. In fondo, vedere che dalla protesta di un ragazzo nasce un movimento pacifico, la gente che non brucia bandiere ma canta l'inno nazionale, utilizza Twitter, ha i colori della bandiera dipinti sulle guance, sconfigge gli eserciti, oh che bello, la primavera araba, l'89, il 48, quanti riferimenti, il presidente napolitano, il risorgimento arabo, eccetera. Poi noi europei ci siamo ripiegati sulla crisi dell'euro, abbiamo smesso di occuparci di quanto accadeva, e un anno e mezzo dopo, se il mondo arabo riparla attraverso i media, parla o per la guerra terribile che si sta svolgendo in Siria, o per i contrasti fra l'estremismo islamico dei salafiti contro i fratelli musulmani, o si parla attraverso il rischio del contagio in Libano, e dunque si ritorna ad avere paura. Allora io dico attenzione, perché queste rivoluzioni avranno pure molte incertezze, faranno passi falsi, ci saranno vittime ancora in questi mesi, ma noi non dobbiamo perdere di vista il messaggio di fondo, e il messaggio di fondo è che c'è una generazione che si è svegliata, smette di essere eccezionale, smette di pensare che globalizzazione è sinonimo di americanizzazione, che è qualcosa che va combattuto, si riprende l'idea che il cambiamento è possibile e che i leader ci si possono scegliere democraticamente. Ci vorrà del tempo ovviamente, ma io dico pensate all'Europa, l'Europa prima di arrivare a una dinamica normale fra partiti conservatori e progressisti ha impiegato 130 anni. Dalla metà dell'Ottocento fino alla fine del Novecento la politica in Europa si è combattuta asperrimamente, ha creato dittature, momenti autoritari. Come possiamo immaginare che il mondo arabo faccia questa stessa nostra operazione che ci ha richiesto 200 anni di vita in pochi mesi? E allora, in sintesi estrema, il Maghreb, cioè la sponda sud del Mediterraneo, è quella dove le cose vanno relativamente meglio. In fondo, in 5 paesi si è votato in tutti e 5, si sono riscritte 3 costituzioni e mezzo, ci sono leadership elette a questo punto e scelte direttamente dalla popolazione. In grande sintesi, poi non posso andare molto nel dettaglio. Nel Golfo la primavera non è mai arrivata, e non è mai arrivata semplicemente perché sono, come dire, petromonarchie dove non si pagano tasse, e dove dunque non vige quel principio del no taxation without representation che dette origine alla rivoluzione americana, per cui in buona sostanza io non ti faccio pagare le tasse e dunque tu non chiedermi rappresentanza politica, stai zitto e accontentati dei grandi benefici che questa benedizione barra maledizione dell'economia del petrolio permette a me, monarca, di poterti elargire. E invece il Maghreb è l'area da sempre più problematica e complicata, perché è quella che appunto Israele, Palestina, Libia, Libano, Siria, Giordania vede da anni, anzi fatemi dire da millenni, incroci, traffici di persone, civiltà, etnie, religioni, ed è a tutt'oggi un'area geopolitica in cui, come dire, abbiamo troppi cuochi in cucina, le vecchie potenze di ieri e le nuove potenze, Stati Uniti, Russia e Cina, Turchia, Egitto, Nazioni Unite bloccate sull'intervento in Siria, ecco lì la transizione sarà effettivamente molto complicata. Ma ripeto, messaggio finale, non perdiamo di vista ciò che si è mosso sotto la pelle, sotto la pancia di questo mondo arabo, concetto che io chiamo empowerment, trasferimento di poteri dalla vecchia società araba a quella nuova, e nuova consapevolezza dei ragazzi, dei giovani arabi, che questo nuovo potere non se lo vogliono più far levare. Per cui attenzione, il cambiamento avrà tante incertezze tattiche, ma il mutamento strategico di fondo è stato e sarà veramente profondo. Quindi in conclusione, che cosa ci possiamo aspettare per il domani? Sappiamo che la transizione sarà lunga, d'altronde come accennava lei, in Europa ce n'è voluto di tempo prima di affermare quelle che sono state le nostre democrazie, pensiamo già per esempio solo alla famosa rivoluzione dei popoli del 1848, insomma da lì ad affermare poi i diversi stati sono passate anche altre rivoluzioni e 2 guerre mondiali, quindi voglio dire, ahimè, insomma la via verso la pacificazione e verso la consolidazione di istituzioni che vengono anche dal basso, perché viene soprattutto dal basso la accettazione dell'autorità, sicuramente richiederà molto tempo. Però che cosa pensa lei in questa agenda di domani? Quali saranno i fattori che spingeranno queste giovani menti, queste giovani vite a non mollare, ad andare avanti, a perseguire in questo loro sogno? Perché la paura, tutto sommato, potrebbe invece essere e far da padrona. Ma allora, la paura è un sentimento che appartiene a noi europei, è una paura anche mista a malinconia, a nostalgia di un mondo che non c'è più magari, ma non è loro. Questo è un mondo che anche quando si combatte aspramente e lascia morti sul campo, non lo fa dettato dalla paura, ma da un senso dell'urgenza del cambiamento del mondo che non appartiene più a noi. Noi possiamo rivendicare la nostra saggezza di europei che hanno costruito la pace, l'integrazione, l'Unione Europea e quante altre cose, e quindi facciamo più fatica a comprendere mondi dove queste dinamiche per noi scontate non sono ancora entrate. Cosa dobbiamo fare? Dismettere un atteggiamento puramente cattedratico. Ti spiego come si fa. È un po' il vecchio atteggiamento prima coloniale e poi paternalista che abbiamo utilizzato nei confronti dei regimi poi caduti, mentre invece io ho sperimentato anche personalmente che andare a confrontarsi con la nuova generazione, sia essa impegnata in politica, nei media, nel sindacato, nell'insegnamento universitario, ci richiede di mettersi, come dire, spalla a spalla, mano a mano, ingaggiare e farsi ingaggiare. Ed è da questo investimento di lungo periodo che può nascere un diverso mondo arabo anche nelle responsabilità. Aggiungo che l'Europa potrebbe avere con il programma Erasmus Mundus la capacità di integrare molte delle nuove elite, virgolette, anche nei nostri studi universitari. Insomma, le amicizie di lungo periodo nascono così. Secondo, dobbiamo avere rispetto e un po' di intelligenza analitica nel capire quanto passa attraverso l'Islam politico. Voglio dire, quando vediamo i fratelli musulmani lottare asperrimamente con le minoranze salafite che non accettano il risultato delle urne che li ha messi in minoranza, e vediamo una sequela magari di attentati, di episodi terribili, non facciamo di ogni erba un fascio. C'è un Islam moderato che sta cercando di vincere la partita della democrazia contro un Islam estremista. Non sono tutti uguali e noi dobbiamo scegliere. Terzo, questo mondo islamico che evidentemente ha fatto la rivoluzione non soltanto su una base di principi, libertà, dignità, riforme, ma anche sotto l'urgenza di una crisi economica, ha bisogno di riuscire sul piano appunto delle riforme economiche, e su quello l'Europa e non soltanto l'Europa potrebbe fare molto, perché è ovvio che chi ha fatto la rivoluzione si attende oggi dai nuovi governanti quelle risposte che i vecchi governanti non erano in grado di dare, e il tempo è una variabile che corre veloce, per cui noi non possiamo permettere che quelle riforme falliscano sul piano della rivoluzione. Una cosa è certa, questa generazione ha appreso che il cambiamento è possibile, non si è più rassegnata all'idea che dopo Gheddafi ci sarebbe stato Saif al-Islam suo figlio, o dopo Mubarak, Gamal Mubarak e via discorrendo, e quindi non si farà levare facilmente dalle mani questo potere di decidere sul proprio futuro. Effettivamente mi sembra essere un ottimo messaggio di speranza. Lapo, noi la ringraziamo per la sua partecipazione a Brussellando. Voglio ricordare quindi ai nostri amici ascoltatori, quindi Il nuovo sogno arabo dopo le rivoluzioni. Per il momento è un ebook ad un prezzo veramente eccezionale, 4,99 euro, che si può facilmente scaricare dalle differenti piattaforme online. Io per esempio l'ho trovato da Amazon. E speriamo di averla nuovamente nostro ospite, magari nell'occasione di un altro libro, di un altro saggio. Con molto piacere, ma anche prima, insomma, ma anche prima, senza bisogno magari di parlare dei libri, ma con molto piacere, e mi fa piacere che abbia ricordato che questa scelta, che anche per me è stata molto nuova, cioè quella di accedere al mercato digitale, permette però due cose: di mantenere un prezzo attaccabile, nonostante il libro sia in qualche modo impegnativo come dimensione, ma se ne può leggere a parti e a brani a seconda di ciò che interessa, e secondo, ha permesso di accelerare estremamente i tempi tra la consegna di un testo e la sua uscita, per cui ad esempio gli eventi sono aggiornati, letti e analizzati fino alla fine di agosto, cioè 2 mesi fa. Questo a un'opera in carta non può accadere. Assolutamente, comunque anche noi l'abbiamo potuta scaricare facilmente dall'estero, quindi veramente invitiamo tutti i nostri amici ascoltatori, tutti coloro i quali vogliano capire che cosa è accaduto in questo brevissimo lasso di tempo, quindi anche storicamente questo è un tempo breve che probabilmente tra qualche anno sarà interpretato diversamente, però insomma il sapere va consolidato, va diffuso, e sicuramente credo che questo suo saggio avrà notevoli ripercussioni. Anzi, mi sembra di aver letto proprio su Amazon che è tra i libri più scaricati, quindi... Ma adesso io, come dire, faccio gesti scaramantici, però mi ha dato molta soddisfazione su un'altra piattaforma, Feltrinelli, che è quello dell'editore, e infatti devo dire mi sono levato la soddisfazione di fare la stampata, perché fino a che regge, why not, c'è la classifica degli ebook più venduti, e si cominciava con Andrea Camilleri, si seguiva con Ken Follett, poi c'erano tutte le famose sfumature di grigio, di nero e di rosso, poi c'era Stefano Benni e poi c'ero io, e questo ovviamente mi ha dato una grande soddisfazione. Beh, di sicuro era in ottima compagnia, quindi cari amiche, cari amici, leggete, continuate a leggerlo, come sosteniamo sempre a Brussellando, Il nuovo sogno arabo di Lapo Pistelli. Lapo, la ringraziamo tanto e a prestissimo. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Arrivederci.